Fango comandante, come comandare meglio che togliersi le mutande. Money, money, money, power, power, power. Ci controllano microspie nel cervello come Eisenhower. Il mio è metrica, un arsenale, Kalashnikov, Molotov in parole. Parliere delle sacre scuole, delle case stregate, sfigate. Manco vi guardo, fate ridere come le pretese di sfondare. Lancio parole, laccio, ti intrappolo, ti squarto e me ne fotto se fa male. La tua mentalità normale, il babbo un uomo vero, fiero, mamma inglobata nel suo mistero, mia sorella persa in una dieta da una vita, io vorrei solo una dose di cocaero, volerò, la società è un inganno vero, la gente è malata, se ne fotte, se le prende, anche se la paghi, parole tipo aghi, cerca gli intrighi, diventano sofisticati ma con discorsi sbagliati, non cambiano, io cambio, boh, ma sarò ridicolo, ma non voglio essere preda di una messa in scena o pedina di un politico. Io sono cronico, sta roba la sento dentro tipo daltonico, di ciò che sono sarà che mi abbandono, mi spavento da solo, ti uccido, espello tutto il male, loro dicono, poi mentono. Vorrei cribillarmi in un vicolo e mitragliarvi la fila nel letto virtuale. Solo sguardi arrapati di ninfomani che girano per le strade. Non so se si sente la rima, è solo che non è banale. Mi vogliono addestrare, io sputo sulla telecamera e sul posto statale. Voglio solo essere normale. Un verso spontaneo scrivo di getto, ti butto nel letto, ti scopo tipo confetto. Ma non per questo un cane. La penna vola, inchiostro morsi, rimorse, no rimorse. Dors di un'altra era, oggi il vero Gima avrebbe troppi nemici. Rimango una chimera e sulla traccia ti riconosci e dici: questo sono io, io non ti snobbo. Fango, che cazzo dici? Quello che mi pare, io odio il militare, comandante d'arte, rinviato alla naia, noia, meglio spalare la merda sulla società che farci parte, statali senza arte né parte, commesse coinvolte nel volerne farne parte di uno show ipnotizzate da una giostra mediatica telepatica che li narcotizza e li alcolizza. Ritiratevi, ritirate le mani, meglio abbandonate attrici e attricette di una commedia di un commediante ma senza un'anima. Valore di 4 soldi, modelle prese a saldi, tutte e tutti corrotti. Io da padre vi prenderei a botte urlandovi di farvi un'anima, un io, ma non posso, purtroppo non sono Dio. Io da padre vi direi di farvi un'anima, un io, ma non posso, purtroppo non sono Dio. Io da padre vi prenderei a botte urlandovi di farvi un'anima, un io, ma non posso, purtroppo non sono Dio, purtroppo non sono Dio.